È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Politica, politica, è demagogica, è scatologica, questa politica economica non vale. Nelle segrete stanze del potere, chi ci entra poi non ci esce più. Non c'è via di scampo. Caro Parenzo, iniziamo questa sera con la questione della guerra in Libia. E come iniziamo? Per una volta, lo dico una sola volta, Italo Bocchino ha ragione. Pensa un po' cosa ti dico stasera. Pensa un po' come esordisco stasera. Abbiamo fatto una canzonetta su Bocchino. Il 99,9% delle volte non sono d'accordo con lui. Questa volta devo dire di sì. Prevedere la fine della guerra è come prevedere la fine di un amore. E alla fine la metafora ci sta su questa questione della risoluzione, sulla Libia, eccetera, su cui si sono messi d'accordo, ma in realtà poi non si mettono d'accordo con la realtà, con gli eserciti, con la situazione sul terreno. Bocchino. Hanno calato le braghe a metà tutte e due. Bossi, perché la NATO ha risposto immediatamente dicendo non si può prevedere quando finisce un intervento militare, è impossibile prevedere, come prevedere quando finisce un amore. Non si può scrivere il primo giorno in cui scocca la scintilla quando finirà un amore. Berlusconi ha ottenuto una figuraccia internazionale con e poi parla della figuraccia internazionale, quelle naturalmente sono le opinioni di Bocchino, fa parte della polemica politica, però è vero che prevedere la fine della guerra è come prevedere la fine di un amore. È così, bravo, c'è poco da fare. È bravo. Dire che è bravo quando è bravo. Dice questa cosa, non è che è bravo in assoluto. No, beh, in assoluto. Paolo Guzzanti, che come sai è tornato in maggioranza con i responsabili, la pensa come Bocchino in questo caso. Porre una data di fine mandato, di fine azione militare è ridicolo. Però ha votato sta roba, no, perché lui è al Senato. No, quindi... non l'ha votata, no, ma non la voterà. Prendere l'impegno, è stato già detto tante volte, non voglio ripeterlo ancora, per una data... così come è stato detto e menzionato qua, è impensabile ed è anche abbastanza ridicolo. La dignità di questo Parlamento non dovrebbe consentire che le quadre politiche trovassero questi sbocchi. Beh, così c'è poco da fare, però per divertirmi un po', ma rimandatemi Albertini su Agnelli e Berlusconi, vi prego. È come per te quando senti Borghezio. Io quando sento questa cosa di Albertini da due giorni a questa parte ritrovo un po' di serenità. Sì. La patonza deve girare. Albertini che imita Agnelli e che ricorda, ripeto per l'ennesima volta, un incontro tra Berlusconi e Agnelli in cui i due hanno scoperto di avere avuto una donna in comune. Una donna in comune. Le gaffe della politica. La Russa ieri sera, anche se una gaffa non del tutto certa, Ballarò, in cui a un certo punto si volta indietro, parla con il suo staff e dice: ma sto Lukashenko, dittatore della Bielorussia, presidente della Bielorussia, chi è questo? Allora, ministro La Russa, ci spiega cosa possiamo colpire. Scusi, disturbo. Questo del 2009. Se c'è un attimo. Lukashenko chi è questo? Beh, ci sono varie interpretazioni qui. Potrebbe essere Lukashenko che è questo, cos'è questa cosa. Insomma, a me pare improbabile, siccome poi Lukashenko è stato avvicinato anche a Berlusconi. Ti ricordi quando andò Berlusconi in visita, se non sbaglio? Certo, certo. O quando venne lui. Grandi elogi il Berlusca. Esatto. Mi pare difficile che il ministro della difesa non sappia chi è Lukashenko, questo mi pare francamente impossibile. Poi c'è un altro. Ce lo auguriamo. Un altro battibecco con Tosi che sentiremo più avanti, in cui si sente in sottofuoco: mi fai fare delle figure del C, puntini puntini, porca P, puntini puntini puntini. Prima di presentarti un ospite molto importante oggi, però, caro Parenzo, e già ti chiedi chi è questo ospite di oggi. Beh, sono in trepidante attesa. Per il tuo divertimento ti fa... certo, per il tuo divertimento ti faccio ascoltare l'ex direttore generale della RAI, Masi, come sai, ex direttore generale della RAI. Lo rimpiangi tu? Lo rimpiangiamo? No, direi di no. Assolutamente, la maniera figuriamoci assoluta. Con Minzolini, che secondo lui è un innovatore. In realtà l'ha detto più volte ieri sera ad Antonello Piroso. Si può discutere o non discutere, che Minzolini faccia o non faccia un telegiornale, che piace o non piace. Io personalmente su alcune cose mi piacciono, alcune cose meno, però lo considero un autentico innovatore. Il telegiornale paludato, il telegiornale tristo di una volta, Augusto l'ha sicuramente cambiato. Si può discutere se ha fatto bene o ha fatto male. Adesso che abbia cambiato il TG1 triste, magari è innovatore perché ci sono gli editoriali. Ci sono gli editoriali. No, l'ha innovato, è il telegiornale della non notizia. Va bene, ancora la nostra fissazione adesso di questa cosa. Va bene, vabbè, tu hai le tue idee su Minzolini, io la mia, ma comunque certamente non è un innovatore. Su questo non c'è dubbio. Era simpatico quando facevi retroscena sulla stampa. Lì era innovatore, ha inventato un genere. Va bene, va bene. 800 24 00 24. Sai chi c'è con noi questa sera? Ma come faccio a saperlo? Sono a Roma, fai domande storiche. Ma come faccio? L'uomo dei poster, l'uomo dei manifesti contestatissimi a Milano, colui che si è preso addosso tutta la responsabilità, è stato praticamente marginato dal PDL, messo in un cantuccio dal sindaco, non si sa quello che succede. La cosa sicura è che è stato indagato dalla Procura di Milano per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Anzi no, sì, forse sì, è quello Lassini, lei che è pure avvocato. Roberto Lassini, buonasera. Buonasera, buonasera. Roberto Lassini qui alla Zanzara in diretta. E allora voglio subito chiedere una cosa a Lassini. Io su questa cosa devo dirti la verità, Parenzo, su questo ci scontreremo. Su questa indagine della magistratura io sono dalla parte di Lassini. Mi sembra una cosa ridicola il fatto di andare sotto inchiesta, perché uno si è attribuito la responsabilità di alcuni manifesti che recitavano, ricordo, via le BR dalle procure. Poi il resto naturalmente è un altro discorso e ne abbiamo già parlato. È come il direttore responsabile di un giornale. Se un giornalista scrive una ciofeca, è responsabile sia il direttore sia chi scrive. Fine della discussione, andiamo avanti. Lassini, chi è che ha scritto materialmente quei manifesti? Ma sinceramente non so chi li ha fatti i manifesti. Lei ancora non lo sa, dopo tutti questi giorni non sa materialmente, non so materialmente chi l'ha fatto. No, è questo il problema. Il problema è, come diceva lei, che il reato non c'è. È stata chiesta scusa, no? Abbiamo chiesto scusa perché si è creato un grosso equivoco. Si sono sentiti offesi tutti quelli che sono stati coinvolti, soprattutto le vittime del terrorismo, i magistrati, e oggettivamente bisognava chiedere scusa. Però lei quella lettera a Napolitano l'ha scritta poi? Sì, perché sì. L'ha scritta, ma cioè il presidente Napolitano l'ha ricevuta quella lettera materialmente? Quella lettera è stata resa pubblica con una conferenza stampa e telegiornale. Poi è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno al Palazzo del Quirinale. Oh, questo dunque lo chiariamo perché poi c'era stato qualche dubbio. È stata mandata una raccomandata con ricevuta di ritorno al Palazzo del Quirinale con le scuse che abbiamo sentito anche qui alla Zanzara praticamente in diretta da parte di Lassini. Però io le ho chiesto chi materialmente l'ha scritto, lei dice non lo so. Ma l'idea chi è venuta? Beh, non sapendo chi ha ideato il manifesto, non so chi ha avuto l'idea. Io dico che a un certo punto mi sono sentito in dovere di dover prendere la responsabilità, essendo il presidente peraltro onorario di questa associazione, e di interpretare quello che era un messaggio che, ribadisco, è stato chiesto scusa per le ragioni che abbiamo già spiegato, ma era una provocazione esagerata, una caduta di stile, se vogliamo, un alzar la voce. Però oggi il tema è che si discute se vi sia o non vi sia questo reato. Io ritengo francamente che non vi siano i presupposti per poter procedere in sede penale. Qualcuno mi ha detto che si potrebbe arrivare presto voci dalla procura di un'archiviazione. Lei ne sa qualcosa? No, io non ne so nulla. Ne dico soltanto quella che è la mia opinione in maniera più semplice possibile. Questi sono concetti elastici, reati d'opinione. C'è un relativismo culturale, sa, come i reati contro il buon costume. Una volta per un semplice topless i pretori, una volta c'erano i pretori, aprivano un procedimento penale per atti osceni in luogo pubblico. Oggi l'asprezza dello scontro politico, il linguaggio, i toni, che io peraltro non condivido e non me ne faccio vanto di aver patrocinato questo manifesto, sono tali da, secondo me, considerare che non si debba parlare di codice penale, ma si debba parlare di altro. No, ma anche secondo me, in realtà forse si potrebbe arrivare ad una archiviazione, mi dicono, perché non è sicuro che lei appunto li abbia, anzi lei lo nega naturalmente. Non si può attribuire una responsabilità a quei manifesti, anche se c'è una responsabilità per quello che riguarda la sua associazione. Senta, ma dunque noi non dobbiamo stare qui a fare il tifo a che venga archiviato, io me lo auguro personalmente per lui, perché non è che c'è da gioire, però la procura farà l'inchiesta, deciderà se rinviare a giudizio o meno. Questo non è che dobbiamo fare il tifo contro o a favore di Lattini. Lassini, lei spera che innanzitutto che Alfano dia via libera questa indagine oppure no? Perché c'è questo anche un altro punto. Lei spera che Alfano, o spera al contrario, oppure spera che Alfano blocchi tutto? Ma è una decisione che assumerà chiaramente il ministro. Certo. Io ritengo che il ministro prenderà la decisione più corretta e opportuna. Per quanto mi riguarda, io non ho nulla da nascondere, affronto già nel merito la questione. Vedi, voglio ricordare anche questo bel articolo di Battista che è apparso sul Corsera qualche giorno fa. E l'incipit è questo: bei tempi quando la sinistra si batteva con coraggio contro i reati di opinione. Ecco, secondo me il tema vero in realtà, cioè, secondo è me per esempio questo il vilipendio agli organi giudiziari, cosa c'è, andrebbe eliminato come articolo, come reato? Secondo me andrebbe eliminato, sì. Andrebbe eliminato. E tanto è vero che si fa fatica a trovare della giurisprudenza sul punto, eccetera. E così come il reato, ribadisco prima, contro il buon costume, no? È difficile. Senta, trovare un confine. È curioso che non sappia chi è che l'ha fatto. Non credo che sia un'associazione da milioni di iscritti. Insomma, dovrebbe venire fuori. È vero che c'è un'indagine, c'è un altro indagato che è l'ex segretario o portavoce, non ricordo chi, il coordinatore regionale. Gli iscritti, scusa, l'associazione, mica un milione, cioè una forza. L'associazione ha avuto centinaia e centinaia di adesioni. Ma come fai il responsabile a non sapere chi l'ha fatto? Lei non ce lo dirà mai, ed è giusto che sia così, ma è impossibile che ci dica, guardi, non so chi l'ha fatto. Guardi, Parenzo, io le dico che non so chi l'ha fatto. Cioè, lei quando l'ha saputo? Li ha visti affissi? Certo. Li ha visti affissi, prima non sapeva assolutamente nulla. Cioè, fanno le cose senza che il Presidente lo sappia, è una situazione pazzesca questa, è anarchica. Io sono il Presidente onorario, Parenzo. È un po' narcoide. Cioè, ognuno fa quello che cazzo gli pare, è la vera casa della libertà quella lì. Non dica così. Senta, la domanda delle domande è questa: lei è candidato, però ha rinunciato ufficialmente alla candidatura, non si può ritirare dalle liste, non si può cancellare. Lassini, resisti. Lassini, tutti quelli che ti vogliono mandare via, Cicchitto, Lamoratti, Lassini, resisti. Perché dici così, Parenzo? Perché deve resistere, perché Lassini sta pagando per tutti. Può sembrare paradossale, e chi mi ascolta potrebbe dire Parenzo è pazzo. In verità sono coerente con un pensiero. No, ma l'hai già detto più volte. No, ma io deve resistere. La signora Moratti quando dice vada via mi mette in imbarazzo. Ma cosa mette in imbarazzo? Il pensiero del PDL è quello che dice Lassini. Io non lo condivido, ma Lassini deve resistere. Chi ha scritto questo manifesto ha interpretato, lei ha detto, no? Ha interpretato le stesse parole di Berlusconi, così, no? Sì, sul brigatismo giudiziario. Assolutamente. Cioè, Berlusconi la pensa come lei su questo. Cioè, Berlusconi la pensa come c'è scritto in questo manifesto? Ma io non ho detto esattamente questo, ho detto che le affermazioni, i toni alti che usa il presidente Berlusconi sono necessari per attirare l'attenzione sul tema della giustizia. Beh, no, lei ha anche detto che nello scrivere alcuni manifesti, tra cui questo, ma anche se non l'ha scritto lei, più o meno ci si è rifatti a quello che ha detto Berlusconi. Beh, sì, cioè, via le biere dalle procure è la traduzione di quello che pensa Berlusconi, sì o no? Gli slogan ci assomigliano, certamente nei toni si assomigliano molto. Ma io però volevo dire una cosa, Parenzo. Non credo che il tema della giustizia affrontato anche con toni alti sia un tema che non porta all'unione dalla lista per Milano e del partito con il quale comunque io mi sono candidato, al di là della mia posizione. La Moratti ha detto o io o lui. Allora, ma ci sta ripensando? Allora, ma non so, a me sembra che la cosa abbia assunto un tono così imprevedibile che se ne possa pensare, ma questa è l'oggettività delle cose. Poi penso che anche lei, Cruciani, abbia vissuto piano piano questa situazione, per cui c'è l'assoluta buona fede da parte mia e da parte di tutti, e penso che il sindaco abbia interpretato in maniera ineccepibile quello che è il suo ruolo e la sua veste istituzionale, però, mantenendo una posizione di equidistanza. Se non mi faccio il diplomatico sulla Moratti, o lui. C'è stato uno tsunami mediatico. Un riavvicinamento c'è stato? Ma insomma, io penso che il sindaco cominci a capire quello che abbiamo sofferto, quello che la mia famiglia ha sofferto. Io penso che c'è stato anche un contatto tra il sindaco e sua moglie, è vero? Ma ieri sera c'è stata questa cena organizzata dall'onorevole Santanchè, dove sì, mia moglie donne, è stata invitata, eccetera, eccetera. E effettivamente io credo che il gesto. E che è successo tra loro? Il gesto che il sindaco ha usato fare nei confronti di mia moglie, quindi anche nei miei confronti, di stringerle la mano e di accoglierla, è un gesto che dal punto di vista umano mi riempie il cuore. Una stretta di mano? Lei non è mica un appestato adesso, ma perché si dipinge come un appestato? Anche un abbraccio, cioè, c'è stato un abbraccio anche o no? No, Parenzo, sto dicendo. Mi abbia stretto la mano. Ma come? No, ma c'è stato anche un abbraccio, c'è stato un abbraccio o no? Sì. Mi allora, la moglie di Lassini ha abbracciato, anzi, la Moratti ha abbracciato la moglie di Lassini. Grande riavvicinamento tra la famiglia Lassini e la famiglia Moratti a Milano. Questa è la notizia, 18:48, traffico. Eccoci alla Zanzara, 800 24 00 24, con Roberto Lassini, l'uomo dei manifesti, l'uomo che si è attribuito la responsabilità di questi manifesti via le BR dalle procure a Milano, che hanno suscitato grande scandalo, e c'è stato anche un'iniziativa giudiziaria, un avviso di garanzia per articolo 290 del codice penale, vilipendio alle autorità giudiziarie. E lui è ancora candidato. Io voglio chiedere, Lassini, una cosa molto semplice. Lei, ma scusami, quando Berlusconi disse che i magistrati sono matti, lì non c'è il vilipendio. Lassini, beh, ci libero, sono anche delle frasi. Lassini, libero. Ma è liberissimo, insomma. Nessuna intenzione di arrestare. Ci sono anche delle frasi pesanti contro Berlusconi. Cioè, è vero che non esiste il vilipendio ormai nei confronti del Presidente del Consiglio. Però ci sono delle frasi pesanti ogni giorno contro Berlusconi. Ma lasciamo perdere. Non c'è dubbio. Ma io dico Lassini libero. No, ma infatti Lassini liberissimo. Qui di fronte a me, libero, libero e senza catene. Voglio chiedere a Lassini: quanti voti pensa di prendere lei? Ma guardi, anche qui è nato un grosso equivoco, perché però lei dica la verità, vuole essere eletto, non ci si poteva togliere dalla lista. Vuole essere eletto. A questo punto io ho detto all'inizio, chi vuole votare per me barri vetta la croce sulla lista Moratti. Oggi il mio invito è di votare il presidente Berlusconi. Se poi adesso qui non si possono fare dichiarazioni di voto, siamo in campagna elettorale. Però lei non si possono fare, lei non può dire invito a votare per Berlusconi. Lei può dire invito a votare per me, per quelli che credono nelle mie Berlusconi, manco andrà in consiglio comunale. Cioè, lei quanti voti pensa di prendere? Diciamo la verità, che ne so, non lo so. Non ho proprio il polso della situazione. Comunque se sarà eletto, rimarrà in consiglio comunale. Sì, è un bel problema questo, un bel problema politico. È una domanda difficile. Cioè, io personalmente ritengo che bisogna rispettare la volontà degli elettori sempre. Nonostante il fatto che il partito me lo dice la Costituzione. Certo, nonostante il fatto che il suo partito ha detto che non la vuole nel gruppo e che dovrebbe dimettersi un secondo dopo, la Lega ha preannunciato battaglia e tutto qua. Io penso che le questioni debbano essere esaminate un passo dopo l'altro. Però lei pensa di rimanere in consiglio comunale comunque, cioè, se l'ho detto, dipende da che cosa? Dipende da che cosa? Dal numero di voti? No, non credo che dipenda da questo. Cioè, se eletto, cioè, ci penserà nel momento in cui viene eletto. Io penso che si debba rispettare anzitutto la volontà degli elettori. Il partito penso che darà un'interpretazione più che corretta a questo. Il partito veramente ha già detto la sua da questo punto di vista. Ha già detto che lei dovrebbe dimettersi un secondo dopo. Io credo che le questioni debbano essere affrontate un passo dopo l'altro. Berlusconi che le ha detto che deve rimanere al Consiglio Comunale? Non mi ha detto questo. Però ha detto che è con lei. Ha espresso una solidarietà umana. Ma ha detto che condivide l'impegno che abbiamo a sostegno della riforma della giustizia che lui porta avanti. Ma questi manifesti adesso, però, non esageriamo. Quando parla di solidarietà umana, non è che la sta processando il Tribunale Penale Internazionale o la Corte di Giustizia Europea come come un terrorista qualunque. Cioè, c'è un processo che si chiuderà, io mi auguro e credo sicuramente, con la sua assoluzione e anche senza rinvio a giudizio, credo, immagino, perché sennò dovrebbero incriminare mezzo Parlamento. Quindi vada tranquillo, ha una campagna elettorale gratis. Ma non la fa gratis. Non la fa praticamente, se oggi appunto è venuto qua mica a fare campagna elettorale, a parlarci di questo caso. Però lei faccia così, mi dia retta, da qui al giorno del voto segua la signora Moratti ogni giorno, come Forrest Gump, gli vada dietro, dica sono qui, sono non ha intenzione di andare a un comizio della Moratti, Lassini? Ma sì, ma penso di sì, ma la lista Moratti come la sostengo, certamente non faccio campagna per me stesso. Dunque pensa di andare da qualche comizio insieme alla Moratti? Ci sarà questa occasione? Penso di sì, spero proprio di sì. Senta, Luca, però ci dia una certezza, cioè se io vengo eletto si rispetterà la volontà degli elettori e resto in consiglio comunale. No? Questa è la mia volontà. Questa è la sua volontà. Però questo non esclude che io, insomma, col partito porterò avanti un confronto. Ci può dire come è stata la telefonata con Berlusconi? Me la racconti? Una telefonata molto coinvolgente. Ha chiamato lui? Che Kennedy dica Parenzo, è vero, non sono sottoposto a procedimento. Si è messo a piangere? Sì, è vero, io mi sono commosso, non avevo mai parlato col presidente prima. Cioè, ha chiamato lui? Sì. Direttamente, pronto, sono Berlusconi, come fa? Infatti. Sul suo telefonino, direttamente? Esatto. Oppure le passo al presidente? No, c'è stata questa telefonata diretta fra noi due, il presidente ha usato delle parole molto, molto calde e convincenti, ha espresso la sua solidarietà per il mio gesto. E poi volevo dire, suo gesto uguale, cioè per il gesto di metterci la faccia, il gesto di mettermi in mezzo, e sul manifesto ha detto che era d'accordo, tsunami medievale, non mediatico, no, non abbiamo parlato del merito dei manifesti, abbiamo parlato del fatto che questa battaglia va combattuta veramente fino in fondo, perché vede, effettivamente, al di là della posizione istituzionale del sindaco, che io ho rispettato, però molti, no, penso che abbiano tenuto una posizione non subito all'unisono su quella che invece è una riforma che noi cerchiamo di portare avanti in maniera convincente. No, però la Sini, però io dico una cosa, Berlusconi le ha espresso solidarietà e le ha detto non si preoccupi, io sarò accanto a lei, le ha promesso qualcosa? Ma assolutamente no. No. Che mi doveva promettere? Io, solo una telefonata di solidarietà. Io guardi, sono contento di dare un piccolo contributo per la riforma della giustizia. Io qui non riesco a parlare dei contenuti perché mi rendo conto che forse non interessa. Però io le vorrei dire che... Ma quando verrà eletto vedremo, quando verrà eletto vedremo. Chi le è stato più vicino in questa vicenda? Per adesso? Beh, la mia famiglia. No, politicamente. Politicamente Berlusconi. Invece credo che si è sentito tradito? Credo che il gesto dell'onorevole Santanchè per prima e poi il gesto di ieri sera del sindaco Moratti siano gesti estremamente importanti. Riconciliazione tra Moratti e Lassini. Giornale Radio, ci sentiamo tra un attimo. 800 24 00 24. Caro Parenzo, siamo di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, con la notizia del giorno che è appena arrivata dalla registrazione di Porta a Porta, no? Hai sentito anche tu, Parenzo? Sì. Se vuoi te lo dico, te lo ripeto. No, ho visto tutto. Se è ti sei assentato, la notizia del giorno è che Berlusconi ha fatto il nome del suo successore, diciamo la verità, è così, successore non si sa a cosa, magari alla guida del centrodestra, forse alla guida del governo, non lo so, comunque ha detto se dovessi lasciare, poi magari dirà domani fra 120 anni, comunque se dovessi lasciare il mio successore è Tremonti, il mio successore è Giulio Tremonti. Gioco delle parti? Perché gioco delle parti, scusami? È chiarissimo, è evidente. Dimmi la tua interpretazione, avanti. No, ma credo che in questo momento non abbia nessun interesse, nessuna intenzione di nominare, di dire chi sarà. È un modo per tenere tutti compatti e tutti uniti, è un modo per non scontentare la Lega. È ho un capito, modo però per ha detto se mi tiro indietro Tremonti candidato. Beh, non è una cosa da poco. E dopo domani potrebbe aver detto Alfano, l'altra volta aveva detto era Alfano. No, Alfano al partito. Se mi tiro indietro sarà Cruciani, potrebbe dire anche questo. Ma Alfano ha sempre parlato di partito, ha sempre parlato di partito. In ogni caso, non credo che abbia già la frase mente testuale è questa: vedremo alla fine di questa legislatura se sarà necessario per il centrodestra mettermi ancora quale candidato alla guida del governo. In qual caso io non mi tirerò indietro. Se invece verranno fuori altre personalità, e ne abbiamo diverse, Tremonti in primis, che possono suscitare consenso elettorale, sarà l'ampia gamma di sondaggi di cui disporremo che ci dirà se sarà così, io sarei felice di poter magari restare ancora in politica ma occuparmi del PDL, eccetera, eccetera. È vero che è più articolata la frase, vedremo se ci sarà il consenso, però ha detto Tremonti in primis. Tatanella, solita tatanella. Vabbè, tu sei sempre scettico quando parla Berlusconi. No, ma per chiunque, cioè, mi pare evidente che nessuno ha interesse ora. Però, a nominare... per esempio, ha detto che tutti i leader del mondo sono concordi. Il giorno più bello è quello dell'addio. È l'ultimo giorno di governo, perché finalmente ci si sgrava di una responsabilità che è veramente molto pesante. E vabbè. Si vede che... Andiamo a sentire la signora Maristel Polanco che ci annuncia i titoli del TG3. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Una figlia di Bin Laden accusa, preso vivo e poi ucciso dagli americani. La Casa Bianca ancora indecisa se mostrare le immagini del corpo. L'imbarazzo del Pakistan tenuto all'oscuro del blitz contro Bin Laden a 60 km dalla capitale. Troppe domande senza risposta. Berlusconi, se mi tiro indietro, Tremonti candidato. C'è un clima da guerra civile. Nuovo attacco alla procura di Milano. Mozione PDL Lega sui raid. Sì della Camera, ok anche ai testi PD e Terzo Polo. No a Di Pietro. Il Premier, asse solido. Bossi, ha vinto il carroccio. A giugno una manovra correttiva da 8 miliardi. Sarà una batosta, dice l'opposizione. Ma il governo smentisce. Nessuna correzione dei conti prevista. Alla Cineteca di Bologna una mostra sul lungo lavoro insieme di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, show dell'artista all'inaugurazione. È votata all'unanimità, Lorenza Lei è il nuovo direttore generale della RAI, prima donna nella storia della TV pubblica a ricoprire questo incarico. Beh, nel Benigni Show di ieri a Bologna c'è un paragone tra Berlusconi e Del Bono, che è l'ex sindaco, come sapete, che è stato fatto fuori poi per la questione dell'utilizzazione di carte di credito della regione. E Benigni ha detto: Berlusconi fa un baffo a Del Bono, ricordando, come dire, le conquiste femminili di Del Bono. Insomma, caro Lassini, siamo qui con Roberto Lassini, l'uomo dei manifesti, via le biere dalle procure, si è assunto tutta la responsabilità, ci dice che non sa chi è stato, che l'ha saputo di questi manifesti solamente quando erano già affissi. L'ispiratore, mi dica la verità, Lassini, l'ispiratore, lei che ha sentito per telefono Berlusconi, l'ispiratore è lassù, là in alto, è lui o no? L'ispiratore di questi manifesti. Lei è un istigatore. Mi dica la verità. È un istigatore. Mi dica la verità. Guarda, io sono contento però. Sono contento perché... c'è Parenzo che la difende. Sì. Parenzo mi difende, mi difende, però evidenza soltanto quello che vuole lui nel mio partito. Io invece voglio dire, parlo di mio partito, anche se non sono iscritto, ma lì sono rimasto candidato. Col suo partito. Ma Parenzo, guardi... È un grande partito, è un partito nel quale c'è gente anche come me. Ok, però l'hanno fatta fuori. No, non credo. Penso che c'è gente come me perché... Ma lei è ancora iscritto a PDL? Io non sono iscritto a PDL. Lei non però, è iscritto. Però noi ci mettiamo la faccia, noi discutiamo in pubblico e come dice il nostro coordinatore regionale, senatore Mantovani, alla fine troviamo dei temi che ci unificano. Ma Mantovani e sulla ha detto giustizia che lei... abbiamo un tema che ci unifica. Però Mantovani ha detto che lei... Mi pare che i sondaggi ci abbiano dato ragione. Ma nessuno si rende conto che l'ha scaricato. La Moratti ha detto o lui o Ma lei, Parenzo, dove vota, scusi? Posso fargli io una domanda? No, lei non vota. Toscana, non posso fare domanda. Vota in Toscana. Domanda non ammessa. Non vota. E se fosse di Milano? È stato lui o no a ispirare questi manifesti? Parenzo. No, Parenzo, è stato lui o no a ispirare questi manifesti? È stato Parenzo. Allora, si risponda, è stato lui o no a ispirarli? Cioè, più o meno. No. Mi dica. No, non è stato Berlusconi a ispirarli. Ma le cose sono anche spontanee. Questa è la bellezza. Cioè, ci sono i matti che scrivono queste cose. È avvincente questa situazione. Ci sono i matti che scrivono queste cose. Perché i matti? Vabbè, via le biere dalle procure, non è proprio una cosa... E qua viene fuori la mia anima di avvocato. Io difendo chi l'ha fatto. Come difende? L'ho voluto difendere. Ma devi sapere chi, però. No, lei l'ha definito pazzo, Cruciani l'ha definito matto, pazzo. No, nel senso che non era il caso. Non era il caso, però... via le biere delle procure si può discutere, no, le biere non si devono pronunciare, la parola biere non si deve utilizzare. È sbagliato. Però è uguale al brigatista di Berlusconi, al brigatismo giudiziario, più o meno la stessa cosa. Bisogna alzare i toni per farsi sentire. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sentiamo qualche ascoltatore, va. Ivo dalla provincia di Ancona, buonasera. Ivo? Pronto? Dica. Cruciani, buonasera. C'è l'avvocato Lassini ancora lì? Sì, è qui. Lo insulti pure se vuole, lo insulti pure. Bene, no, io non lo insulto, però mi sembra che abbia fatto delle dichiarazioni, diciamo, un po' leggere, un po' leggerine. Per esempio? Nel senso, anzi, inaccettabili proprio perché è un avvocato. Allora lui, mi sembra, all'inizio ha detto che, insomma, ha invocato una sorta di improcedibilità in quanto ha chiesto scusa. Questo fa ridere ai polli, se permette. Perché proprio lui fa l'avvocato, allora se uno ammazza una persona chiede scusa alla famiglia, ma non e pertanto non si procede più. Ma che stiamo scherzando? Non credo che volesse dire questo. Ha detto vabbè, che. Però le parole sono. Vabbè, ma lei ha fatto bene a farlo, ecco, a farlo notare. Seconda cosa, poi... Parenzo fa del folklore, lasciamo perdere Parenzo. Che ha fatto Parenzo? Sono proprio telegrafico. E per quanto riguarda invece quello che è successo, faccio i complimenti a chi è che ha inventato tutta questa cosa, che hanno fatto un bel marketing elettorale. Non c'è dubbio su questo. Perché da un lato a questo candidato porterà tanti voti, perché senza un minimo di pubblicità, addirittura la Santanchè l'ha sostenuto, via dicendo, prenderà tantissimi voti. Sì, sì. Dall'altro lato anche la Moratti, che ha fatto una figura secondo me di bassissimo profilo, proprio perché è un sindaco, via dicendo, dicendo che è incompatibile, tante castronerie. Invece lei porterà tanti voti dei moderati, diciamo così, per cui la solita No, guardi, secondo me alla fine, paradossalmente, pur avendo detto la Moratti o io o lui, i voti che magari andranno alla Sini poi automaticamente andranno anche alla Moratti, per cui alla fine ne approfitterà, diciamo, in una duplice veste, quella di castigamatti, cioè quella di censore di Lassini, e poi anche come sindaco, perché come candidato sindaco riceverà gli stessi voti. Gino da Napoli, buonasera. Ah, salve Cruciani. Dica. Allora, premetto subito che mi amo definirmi oramai sporco comunista, perché oramai perché? È diventato un... sì, perché oramai il nostro premier, no, c'è etichettato così, per cui io ne vado molto fiero. Va bene, ne vado fiero. Poi? Cosa. Comunque, di tutte le cose che ho ascoltato in trasmissione, a parte le opinioni di Lassini, su cui chiaramente non posso essere d'accordo per posizione ideologica, condivido una delle cose, raramente, che ha detto Parenzo, che diceva anche l'ascoltatore che mi ha preceduto, che ha detto? Questa operazione di marketing a gratis, no, che porterà... A me mi sembra tanto studiata, d'accordo? Tanto messa a punto a tavolino. Ma guardi, studiata non lo so, era un po', erano tra l'altro un po' di giorni. Io dai signori del PDL, no? Dai onorevoli deputati, oramai su quelle che possono essere gli argomenti che veramente interessano a noi elettori, che lì abbiamo votato, perché purtroppo non possiamo escludere nulla. Purtroppo non mi aspetto che di queste cose, di bassissimo profilo, d'accordo? Operazioni che chiaramente... Cioè lei dice tutto studiato, francamente non credo. Hanno atteggiamenti talmente servili nei confronti del Premier, veda la proposta di riforma dell'articolo 1 della Costituzione, la proposta di riforma dell'articolo 94, hanno tutti questi atteggiamenti propositivi, ecco, messi in mostra, d'accordo? In maniera quanto, ecco, come l'atteggiamento lo stesso Lassini, il quale rifiuta l'accredito, dice che appunto non è praticamente fautore, ecco, non ha fatto lui queste cose, però se ne accolla poi secondo lei tutta un'operazione di marketing elettorale. Grazie Gino. Salve. Allora, ma come si è conclusa la telefonata con Berlusconi, Lassini? Buongiorno. Come buongiorno? Quanto è durata questa telefonata? Qualche minuto. Io, a dire la verità, me la sono anche un po' dimenticata, ero molto emozionato. Molto emozionato. Lacrime. Lei, Cruciani, ci scherza? No, ma non sto scherzando. Sa la mia vicenda giudiziaria vera. Sì, ho fatto 42 giorni di carcere, sono stato assolto dopo con formula anni, piena. Dopo 5 anni, no? Dopo 5 anni. Quindi c'è anche questa storia, adesso non ne vogliamo parlare stasera, ma... C'è questa storia dietro. Il presidente mi ha espresso solidarietà anche per questo, Parenzo. Non per questa questione del vilipendio. Però la Siri, chiariamo subito una cosa, forse ci siamo capiti. Io non solo rispetto la sua storia e credo che lei sia stato vittima di un caso clamoroso di ingiustizia. E credo che quei magistrati che hanno commesso questo errore devono pagare. Questo non c'è ombra di dubbio, ciò non toglie che lei politicamente, perché di questo discutiamo, ha avallato dei manifesti che definire ignobili e vergognosi è poco, e il PDL non solo l'ha scaricata, cioè il suo partito non solo l'ha scaricata, ma le hanno chiesto di dimettersi. Cioè, e questo è il paradosso di tutta l'operazione. E poi Berlusconi la chiama per esprimere solidarietà. Capisce che è una storia pazzesca, proprio. È una storia pazzesca. Io però insisto ancora su una domanda, poi dobbiamo chiudere. Berlusconi, lei che tipo di garanzia ha chiesto? Avrà chiesto qualche garanzia, qualche cosa, un posto in Parlamento, alla Regione, una candidatura da qualche parte? Lei vuole fare politica o no? Cruciani, io non vivo di politica, faccio il mio lavoro, faccio la mia professione, io non ho chiesto nessuna garanzia. Per me è stata una cosa importante poter capire direttamente da lui che posso dare una mano anche con la mia piccola associazione. E noi andremo avanti a portare avanti le nostre iniziative, a fare qualcosa che possa essere di utile, di concreto per la riforma della giustizia. Il paradosso è che non tutti all'interno degli schieramenti politici hanno capito che il nostro impegno è sincero. Ma è così. Bene, grazie a Lassini. Grazie a voi. Grazie. Attaccare un po' di manifesti. Saluto gli elettori milanesi. No, fermo. Saluto. Dice che non vuole fare campagna elettorale. Votiamo Berlusconi. No, fermo! No! Ma che votiamo Berlusconi? Ma è impazzito, mi vuole mettere nei guai. Borsa, grazie. la patonza deve girare. L'avvocato Agnelli, caro Parenzo. C'è stata una battuta di Berlusconi anche ieri sera, durante questa cena tra le mille donne in appoggio all'attuale sindaco di Milano, cena organizzata dalla Santanchè, in cui Berlusconi se ne è uscito in questo modo. Non si sente benissimo, però è abbastanza chiaro. Sentiamo. Sentiamo. Ciao Presidente! Che disastro perdere un'occasione come questa con mille donne presenti. Certo. Con mille donne presenti. Che abbiamo da ascoltare? Che abbiamo da ascoltare? Fra poco collegamento speciale, collegamento a sorpresa. Sì, collegamento a sorpresa con la Zanzara. Intanto abbiamo Erminio da Carbonia, dalla Sardegna. Buonasera Erminio. Buonasera. Dica. Senta, io avevo questa curiosità, no? Sì. Qualsiasi cosa dica Berlusconi, qualsiasi, bisogna contestualizzarla. In che senso? Guardi che noi non contestualizziamo per niente. No, ogni tanto contestualizziamo, ma insomma no. No. Anche lei, a parte anche lei parecchie volte. Ma non succede solo con Berlusconi, succede con tutti. Ogni tanto contestualizziamo, ogni tanto andiamo dritti senza contestualizzare. Qualche volta bisogna estrapolare, anche estrapolandosi arriva a delle conclusioni. Insomma, dipende. Ho capito, questo è il modo per giustificare qualsiasi cosa. Ma no, ma non è il cardinale aveva detto bisogna contestualizzare anche la bestemmia. No, scusi Erminio, io non voglio giustificare nessuno, io me ne frego di giustificare qualcuno, non è il punto non è questo. Intanto Obama ha detto alla CBS che non ci sarà la pubblicazione delle foto di Bin Laden ucciso, anche se queste foto sembra che circolino tra alcuni deputati americani, anche alcuni congressisti americani. Che dici? No, che stanno a fare un casino anche questi americani, e foto, e cose, e fotomontaggio, come è morto. Foto e sì o foto no? Bisogna pubblicarle questo o vuol no? Dire che la democrazia ha sempre comunque il diritto alla menzogna anche assolutamente, ma questo qua è normale, è legittimo che sia così. No, ma io lo rivendico proprio in modo politicamente scorretto. Certo, cioè, forse sulla foto di Bin Laden qualche certezza ce la dovremmo avere, il mondo qualche certezza ce la dovrebbe avere. Su questo sono serio, la democrazia può comprendere la menzogna. Assolutamente, ma sono d'accordo con te, forse sulla morte di Bin Laden qualche certezza in più ci vorrebbe. Sì, questo comunque, ci vuole soprattutto per gli americani, perché sennò altrimenti poi la dietrologia, le cose eccetera. Esatto, Erminio, esatto. Allora, cosa ci voleva dire al di là di quello che già ci ha detto? Trovo ridicolo di cosa questo uomo riesca a dire, riesca a fare, cioè bisogna sempre giustificare. Che... Vabbè, noi non giustifichiamo comunque, la ringrazio. Luigi, no, da Milano. Ma soprattutto anche perché poi chi giustifica gente che prende 30-40 mila euro al mese. Vabbè, ma che c'entra 30-40 mila euro al mese? Berlusconi, per la verità, non ha bisogno dello stipendio da parlamentare. Luigi da Milano, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Cioè, roba che giudicare che Berlusconi dice con tutto quello che ha costruito nella sua vita, questo arriva, questo da Carbonia è ridicolo. Vabbè, lasciamo perdere. Ma il signor Lassini è ancora lì da voi? No, se n'è andato. Ah, mi dispiace, volevo esprimergli veramente la mia vicinanza, perché voi avete messo in evidenza solamente quel manifesto delle BR, sì che vabbè è un po' pesante. Beh, un tantinello pesante. Lui. Vabbè, però insomma, quanta gente che la pensa così. Ma io volevo sapere chi era l'ispiratore, questo è il punto, a me non me ne importa di Lassini, cioè me ne importa nel senso che è una persona... Tutti gli altri manifesti che ha fatto prima, sì. Guardi che erano tutti pienamente condivisi. Ma può darsi, ma ce n'era uno che era condivisibile. Se volete cacciare Berlusconi, dovete, esatto, bravo, dovete vincere le elezioni. Uno dei tanti. E tutti gli altri erano. Ma è chiaro che quando uno poi fa un manifesto sulle BR ci si dimentica di tutti gli altri. Luigi, non bisogna utilizzare le Brigate Rosse, la parola Brigate Rosse. È chiaro o non è chiaro? Non è molto difficile da capire. È una provocazione, ma non è solo una provocazione, non è che le Brigate Rosse erano una provocazione. Un grosso fanatico può pensare che Luigi, è una provocazione. Ho capito, ma le Brigate Rosse non sono mai una provocazione. Utilizzare il termine Brigate Rosse non è mai una provocazione. Lo diciamo quando, ma noi lo diciamo quando chiamano Berlusconi che dà che ne so. Dittatore eccetera, lo dobbiamo dire anche in questo caso, Luigi. Con tutto quello che si dice su Berlusconi, ma scusi, ma certo, ma chi ha e detto? Allora perché si devono offendere? Sono degli impiegati statali tutto sommato. Beh, ma che c'entra? Ma infatti c'è il diritto alla critica, questo non c'entra nulla, secondo me c'è il diritto alla critica e non c'è bisogno di fare un processo, su questo non c'è dubbio. Dopodiché ci mancherebbe altro che se si fanno i processi alle opinioni, cioè, sarebbe proprio la fine. Va bene, Luigi. Come si chiama? Vabbè, scusa, come si chiama? Luigi si chiama, qual è il problema? Luigi, che lavoro fa Luigi lei? Io faccio il sono un agente di commercio e ho fatto solo la quinta elementare. Allora, se uno facesse dei manifesti dicendo Luigi, agente di commercio, è un cornuto, lei si arrabbierebbe o no? Sicuro che assolutamente sì. No, sarei felice perché vuol dire che ho sposato una bella donna che me la invidiano. Ma che cacchio dice? Parenzo, lei il premio Pulitzer non lo vedrà mai. Lasci perdere. Cornuto! Lei sicuramente, io non la conosco, non so chi sia, sicuramente stia tranquillo che lei non sarà mai cornuto. Scusi, è con tutto il rispetto per la sua signora. Perché non sarà mai cornuto? Con tutto il rispetto per la sua, chieda a sua sorella. Perché non lo so, sentendolo parlare dico, ma chi può aver sposato un... così. No, mi scusi, però Luigi, smettetela di insultarti in questo modo ridicolo. No, io non insulto, è partito il suo. No, però scusi Luigi, lei voleva dire una cosa a Parenzo. Che voleva dire a Parenzo? Che non lo vince più il premio Pulitzer. Vabbè, non è il caso di premio Pulitzer, non premio Pulitzer. È un giornalista, scusi, io non so chi sì, sia. Vabbè. Lei la conosco perché mi pare di averla vista al controcampo. Sì, ma Pulitzer... che lei ha fatto guadagnare... un telespettatore la domenica sportiva. Però scusi, benissimo Luigi, però scusi un attimo, al di là della domenica sportiva e di controcampo, vabbè, lasci bene una battuta, no, ma per carità, sì. Anzi, lei dirò che mi è anche simpatico, io l'ascolto, ma qui accettiamo tutte le battute, non abbiamo nessun problema, la ringrazio, nessuno di noi. La ringrazio. Collegamento con l'uomo del giorno, il ministro dell'economia appena incoronato da Berlusconi. Giulio Tremonti, buonasera. Buonasera Crociani. Volevamo sapere, scusi ministro se l'abbiamo disturbata a quest'ora, ma la sua prima reazione di fronte a questa incoronazione di Berlusconi, che ha detto: se mi dovessi ritirare dalla vita pubblica, il mio erede è Tremonti. Insomma, è una cosa importante. La sua prima reazione a caldo qual è? Emozionato? Mi dica. Guardi, Crociani. Come puoi intuire, si tratta di problemi che vengono creati dalla stampa oppure vengono creati da determinate frange radicali o globalizzanti di sinistra. Però Tremonti in questo caso non è ministro. Prego, finisca. Lascio terminare. Termini, sì. Arriviamo al nodo del problema. Sì. Con Berlusconi, fra le altre cose, abbiamo parlato ieri sera a Palazzo Grazioli, come sicuramente... Sì, l'abbiamo saputo dalle agenzie. Sì. Abbiamo peraltro affrontato temi politici, ma soprattutto temi economici. Sì. Si è parlato del decreto per lo sviluppo economico, al vaglio del Consiglio dei Ministri a breve, come lei ben sa. Lei sa anche che Berlusconi fa spesso battute, è un personaggio molto affabile. Dunque lei ci sta dicendo che questa che ha fatto a Porta a Porta è una battuta? Questa è una notizia, guardi, allora? È solo una battuta? Io sono ministro dell'economia, questo governo farà il suo dovere fino al 2013. Quando ci saranno le prossime elezioni. Per il resto io leggo tante cose, Crociani. Leggo di Cene, leggo di Cenacoli. Però dunque lei non è rimasto, possiamo dire... Cospiratori nell'ombra. Sì. Sono tutte leggende metropolitane. Sì, sicuramente... E mi fa anche piacere se Berlusconi... ha fatto il mio nome. Mi fa piacere, possiamo dire che le fa piacere. Guardi, finalmente. Che io sono un politico fedele al governo Berlusconi e, come ho sempre detto, sono onorato di far parte di questo governo. Dunque, sono contento, è troppo presto. Che possiamo dire in conclusione, ministro Tremonti, che le fa piacere questa incoronazione da parte di Berlusconi e che comunque Berlusconi decide lui quando andare via, guardi, no? Guardi, non ci sono mai stati problemi. Io volevo soltanto aggiungere una cosa, visto che ho la possibilità, guardi. Parenzo nomina Galan, Parenzo Galan, nomina... ministro Tremonti, Galan, che pensa di Galan, ministro? Galan dai, dice... ma dai Parenzo, dai, non creiamo sterili polemiche, lasci perdere. Ma perché Galan, dice, dai? Anche Galan non è la forza globalizzata. Non siamo al cabaret, dai Parenzo. Però Galan ha detto che lei fa perdere le elezioni, ministro Tremonti. Ma guardi, Galan può dire quello che vuole. Secondo alcuni sarei un sobillatore, guardi. Qualcuno ha detto che ho aizzato la Lega contro Berlusconi provocando la mozione peraltro passata della Lega sulla Libia. Dai, si dicono troppe cose. Noi stiamo lavorando per un paese più democratico e più in salute da parte mia, vabbè, economicamente. Dai. Va bene, ministro, grazie, grazie. Dunque, lei la sua prima reazione è quella: mi fa piacere, però sono solo voci. Beh, non sono solo voci, però c'è una frase di Berlusconi. Insomma, io mi permetto di insistere, so che lei non ha molto tempo, ma no, si sente il potenziale candidato nel 2013? Si sente il potenziale candidato quando ci saranno le elezioni oppure no? Io non mi sento assolutamente nulla, mi sento il ministro che deve pensare all'economia del nostro paese. Va bene. Tutto qua. Bene, tutto grazie, grazie. La prima reazione di Tremonti. Arrivederci, arrivederci. Buonasera. 19.47 800 24 00 24, bene, un'esclusiva della Zanzara. No, questo è forte. È forte, buono. Tremonti in diretta che ha subito... ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la frase di Berlusconi a Porta a Porta. Perché dice sempre dai, dai, ma dai cosa? Dai, non lo so perché, scusa, dice sempre dai, dai, dai, quando deve ribattere ad un interlocutore, quando deve ribattere a un giornalista, dice sempre dai, dai, è un modo di dire, anche tu hai i tuoi tic, dai, no? Paolo da Salerno, buonasera, Paolo da Salerno. Fra poco altra grande esclusiva della Zanzara, fra pochissimo, è una cosa pazzesca. Tremo. Paolo tremo da Salerno, buonasera. Ma era lui veramente? Beh Paolo, non è che noi diciamo stupidaggini, certo che era Tremonti, ma no, ma spesso imitate, dai, spesso fate le imitazioni, io fino alla fine avevo il dubbio. Paolo, guardi, era un collegamento con il Ministero dell'Economia, poi non so chi ha risposto, spero che abbia risposto Tremonti, noi abbiamo chiamato il Ministero dell'Economia, poi che ha risposto Tremonti o no, spero che abbia risposto Tremonti. Vabbè, Paolo, io ho il dubbio perché tra Agnelli, Agnelli era un'imitazione dichiarata da parte dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che noi salutiamo qui, onoriamo, ci inginocchiamo. Parenzo, inginocchiamoci un attimo davanti al... Sono in ginocchio, fidati. Davanti all'ex sindaco Albertini, per le sue imitazioni e per tutto il resto. Bravissimo. Naturalmente. Paolo, comunque, che voleva dire? Niente, Luigi è completamente pazzo, quel signore da Milano, cioè la vicinanza a Lassini. Ma è assurdo, è allucinante. Perché, dice? Ma perché dare la vicinanza a uno che dice via le BR dalle procure per avere visibilità senza poi ragionare su nulla e dire io se vengo eletto non so se mi dimetto, una confusione proprio totale, ma comunque lasciamo perdere. Complimenti alla trasmissione, voi siete agli antipodi e io vi trovo assolutamente complementari come coppia, diciamo, che conducete. Ma veramente non siamo agli antipodi, comunque siete complementari come quella coppia che, se li vedi divisi su tutto, ma che stanno insieme, ed è piacevolissimo secondo me. Bene Paolo, grazie. Due cose veloci. Due cose veloci, pensavo che avesse finito, invece aveva appena iniziato. No, grazie. Allora, due cose. La prima su Bin Laden, io mi sarei aspettato dagli Stati Uniti un atteggiamento diverso sulla cattura di Bin Laden, cioè io preferivo vederlo vivo e gestendo un processo al limite anche in Afghanistan, negli Stati Uniti, per i crimini che ha condotto, e invece lo hanno ammazzato, e secondo me è una prova di debolezza averlo ammazzato. Cioè è stato sbagliato uccidere Bin Laden. Io nei confronti di Bin Laden questi problemi non me li porrei, così. Sì, ma si rende conto come sarebbe stato molto più utile tenerlo in galera o condannandolo, ma tenendolo tra le mani? Cioè catturarlo vivo, dice lei. Sì, perché a quel punto... Non lo so, non sono così sicuro, non mi addentro in queste cose, è meglio vivo, è meglio in galera. È identico al pericolo di ritorsioni ora che l'hai ammazzato. Non lo so Paolo, non sono uno specialista di queste cose, non sono un esperto, dunque non le so dire, francamente non le so dire. La seconda cosa poi qual è? Veloce. Fare una domanda. Mi dica. E poi concludo, vi ascolto per radio. Io direi, secondo me il ministro andrà verso la Lega quando andrà via Berlusconi. La domanda che vi vorrei porre, poi vi ascolto per radio, è: chi vedete al posto di Berlusconi? Vabbè, vedi quando sarà l'età. Mi sembra, non mi sembra una domanda a cui si può rispondere adesso, caro Paolo. La ringrazio e andiamo. Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora verrà, per un futuro e per chi lo vorrà. Un solo cuore, un'unica idea. Caro Parenzo, in esclusiva alla Zanzara, molto bello, devo dire, molto bello. Ritmo, voce, c'è tutto. Sai chi è l'autore? No, non lo sai. Ma non... cos'è? Un tizio che si chiama Danilo Amerio, che è un cantautore, ha partecipato al Festival di Sanremo, poi è andato in Africa, ha avuto dei problemi, è rinato grazie ai Masai, eccetera. Ed è un inno di un gruppo politico, di un partito, di un movimento che insomma è stato molto visibile in Italia negli ultimi mesi, eh? Sentiamo ancora, prova a indovinare. In esclusiva alla Zanzara il nuovo inno dei responsabili. No. Sì. Ma che c'è di strano? Scusa, che c'è di strano? È kitsch, ma come? È una roba kitsch, va bene per una sagra, per un karaoke. Ma come una sagra? Non capisco, a parte che le sagre e il karaoke non sono delle cose roba criminali. Kitsch, la politica ormai è diventata kitsch. Comunque va bene, rispetto per queste nuove cose che nascono, l'inno dei responsabili. No. Domenico Scilipoti, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? È bellissimo. Questo ragazzo che ha fatto l'inno è veramente un ragazzo. Ecco, ma come l'ha intercettato lei? Con un grande cuore. Come l'ha intercettato? Poi non è l'inno di iniziativa responsabile, l'inno del movimento di responsabilità nazionale. Ecco, specifichiamo. Ah, sì. È diverso, no? Beh, certo. No, che c'è? Iniziativa responsabile è il gruppo parlamentare, giusto? Certo. Iniziativa responsabile è il gruppo parlamentare, invece il movimento di responsabilità nazionale è il movimento dove il segretario nazionale dal punto di vista politico si chiama Domenico Scilipoti, che è il deputato. Ma la parola responsabile, tu perché continui a chiamarla ancora Scili? Cerchiamo di dirimere. Ma per il fatto del grande affetto che ha nei miei confronti, e questo è un fatto positivo. Oh, che belle parole, finalmente! Finalmente sento un atteggiamento mieloso, un atteggiamento di grande concordia tra Scilipoti e Parenzo. Ho capito una cosa, devo dire che ho sbagliato. È normale che ci sia, però sempre nei limiti della normalità e della regolarità verbale. Dei limiti del nome. Beh, qualche volta non c'è stata la regolarità verbale della voi due, effettivamente, sì, effettivamente è vero, non c'è stata, però devo dire non sbagliato, c'è stata, eh? Perché erano momenti un po' particolari di tensione, di grande tensione. Ho sbagliato. In che hai sbagliato, Parenzo? Continua a dire ho sbagliato. Ho sbagliato a chiamarlo Fili, ho sbagliato a dargli tutta questa importanza, la ricetta migliore è ignorarlo. No, ma ancora, ma hai iniziato io la ringrazio, dottor Parenzo, perché lei... Parenzo, forse, non Parenzo. Forse effettivamente è meglio ignorarmi, sì, effettivamente ha ragione, dottor Parenzo, è meglio ignorarmi. Lei per me non esiste, non c'è nessuno in collegamento per ora. Ma me. Perché non devi... Nessuno in collegamento. Siamo perfettamente d'accordo. Ma perché devi fare così? Perché ormai è tutto finito, capisci? Cioè fare anche un inno di quel che sembra il Festival di Sanremo, che va bene, e la politica è tutto finito. Ma io voglio ascoltare di nobile, dottor Parenzo. Lei visto che è un nobile di cuore, di anima e di testa. Sì. Dico, quando lei fa queste riflessioni non fa altro che riportare all'attenzione che cosa... la grande nobiltà, e non per non dire le cose come stanno dice l'incontrario, perché la politica dovrebbe essere l'arte nobile che dovrebbe occuparsi l'arte dei problemi nobile, della gente, cioè, lei non risolvere esiste, i non problemi esiste. Cercare di essere, la politica dovrebbe essere una sorta di mediatore o di mediatore fra il popolo e le istituzioni. Hai capito, Parenzo? Queste cose li sa bene, dottor Parenzo, è soltanto che molte volte, siccome fa il giornalista di controcorrente, allora molte cose li dice anche contro la sua volontà, ma lei è un buono, lei effettivamente è una persona nobile, scusi, però ha questa questa grande difficoltà, cioè quella che deve apparire in un modo completamente deve apparire... diverso di quello che è. Ecco, bravo, sì, questa... mi dispiace, perché non fa altro che dare una cattiva immagine a coloro i quali ascoltano, a coloro i quali guardano, di quella che dovrebbe essere quell'arte nobile della politica. Della politica. Allora, io voglio ricominciare da qui, dall'arte nobile della politica, con Domenico Scilipoti, per capire però la parola responsabili in questo inno, che secondo me è anche bello, di Danilo Amelio, dov'è? Alla fine, perché avete messo la parola responsabili solo alla fine? A tra poco. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Un linguaggio così chiaro, un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tua, ancora mia. Quando continua e dice: pronti a difenderci da mondi lontani e da chi toglie crocifissi dai muri senza rispetto dei valori cristiani. Sì. Ma come Parenzo ed altri si possono permettere di dare dei giudizi senza capirne il significato? Hai capito, Parenzo? Quando noi parliamo chi toglie crocifissi dai muri senza rispetto dei valori cristiani, cioè dire, stiamo facendo un'arte nobile del dialogo attraverso la canzone. Cioè, questo significa avere competenza e discutere alla gente, alla gente, per creare le condizioni veramente di un mondo diverso. Ma fermatelo, mi permetto di sottolineare un altro passaggio. Ma chi ha scritto le parole? Siamo milioni un solo e cuore. Un unico Dio. Come, ma scusi? Sai di che cosa stiamo parlando? Qual è l'altro passaggio? Scusi, ma dico io la strofa, io dico io la strofa. Di quello che c'è scritto all'interno della canzone, chi ha scritto questa canzone ha un cuore grande che lui non può nemmeno immaginare. Io la dico io la strofa. Perché quel cuore che porta quel signore che ha scritto quella canzone, lo portano migliaia di italiani che credono nella giustizia, nella libertà, nell'amore. Fermatelo. E nel costruire Fermatelo. Un'Italia diversa, fuori dall'odio. Ma sono con rispetto nei confronti degli altri, perché hanno delle idee diverse dalle nostre. Ma Parenzo ha capito che cosa significa quella canzone. Ma si rende conto che cosa significa la parola politica? Oppure deve essere un servo sciocco e dire che deve essere al servizio solo ed esclusivamente di alcune magliette o di alcuni personaggi che appartengono a un mondo della politica superato? Ma perché non comincia a riflettere, a capire perché i novari stanno dalla parte della barricata potrebbero lavorare per un futuro anche di interesse per i figli di Parenzo e degli altri? Perché non incomincia a capire che c'è gente che vorrebbe cambiare veramente questo mondo, che è fondato sull'odio, che è fondato su criteri che sono completamente diversi da quelli che dovrebbero essere i criteri, che dovrebbero essere il lume, il punto di riferimento per una società civile, democratica e diversa di quella che è. Il dramma è che ci crede, questo è il dramma. Ma non è che ci crede, caro Parenzo. No, Parenzo, il dramma è che dice delle cose pure poverino. Tu. Il problema è che tu sei schierato e sei un servo, nel senso nobile della parola, ma sei un servo di una mentalità che deve criticare senza costruire. E non si pone la domanda di quello che stai mandando come messaggio, tu che stai dall'altra parte della barricata. Perché tu ritieni di essere il primo della classe, come si e fa non a hai capito che sei l'ultimo della classe, dai, su, e non fai dai. Altro che un danno non ai miei figli, ma ai tuoi figli. Ma lei c'ha un danno cerebrale, ma ti rendi conto un futuro d'amore nell'interesse della collettività? Scusi. Non costruirai mai un futuro per la tua patria, mai. Non costruirai mai un futuro che si chiama futuro di famiglia. Scusi. Perché la tua mentalità è distruggere, la mia mentalità è costruire, la mia mentalità è rispettare anche l'idea di Parenzo e di rispettare gli avversari politici. Scusi, Scilipoti. E di rispettare coloro i quali stanno dall'altra parte della barricata, mi può dire qual è per creare le condizioni del dialogo e per far sì che attraverso il dialogo si costruisca un futuro, ma che sia un futuro vero, reale, un futuro che dovrebbe essere qualcosa di meraviglioso, che dovrebbe germogliare quell'amore che dovrebbe creare un'Italia diversa e una patria che tu molte volte conosci il significato ma fai finta di non capire e di non conoscere il significato di patria. Onorevole Scilipoti, si fermi un attimo, io volevo chiedere una cosa. Al di là della questione del crocefisso, qual è il passaggio, diciamo, più importante, più denso di questo inno, a parte il riferimento al crocefisso, qual è secondo lei? Quando dice unico Dio, unico Dio, il Dio di tutti, ma nel rispetto degli altri. Ma non puoi pensare che esistono 300 Dio, o c'è un Dio solo. E quel Dio che tu mi contesti è anche il tuo. E tu devi avere il rispetto massimo, e non puoi, ecco là dentro, in questa canzone, ecco perché dico Parenzio, che capisce quello che noi stiamo parlando, che capisce, sì, si rende conto di Parenzo, quello che dice la canzone, Parenzo, ma fa finta di conto. Non capire, ma perché deve prendere una posizione già, una posizione a priori, deve prendere ma una posizione mai di contratto, senza tentare di rispettare attentamente quello che vorrebbe mandare come messaggio, una canzone che non vorrebbe essere una canzone di parte, ma che vorrebbe essere una canzone di tutti, ma e manda un altro messaggio. Com'è? Scusi. Non possiamo essere divisi, ma dobbiamo stare assieme attraverso tutti, il dibattito, sì. Ma io non voglio stare assieme a lui, ma scontro dialettico, dovremmo costruire un futuro più serio, più sereno, più proficuo, nell'interesse. Senta, Scilipoti, scusi, però ci sono delle persone che parlano ormai di Parlamento degli Scilipoti, Parlamento Scilipotato, Munnizza, la chiamano Munnizza. Veda, Bersani ha detto che la Repubblica è basata su Scilipoti. Ormai lei è diventato un modo di dire, praticamente. Perfetto, ma dico, Scilipoti è un parlamentare. Ma come io credo che il Parlamento debba essere basato su tutti i parlamentari. Io ho contribuito a fare una scelta, ed sì, è vero, io il 14 mi sono assunto una mia grande responsabilità di fronte al Paese, di fronte alla mia coscienza, di fronte agli elettori, sì, di fronte all'Italia e forse all'Europa al mondo, no? E al mondo intero. Al mondo intero, al mondo intero, caro al mondo intero, perché se quel giorno fosse caduto quel intero, governo, ma cosa, ma ti rendi conto governo che lei indica come il governo, come qualcun altro dei suoi amici, ma che governo mondo intero, nipoti, ma fosse caduto il governo Berlusconi, oggi c'era un'altra storia anche nei confronti dell'Europa e del mondo. Cioè, in che senso? Allora io sono contento di aver fatto quella scelta, che era una scelta. Cioè, lei mi sta dicendo che se fosse caduto il governo Berlusconi anche il mondo sarebbe andato diversamente? Non ho detto ho detto che sicuramente il governo, questo governo in Italia, sì, influisce, non so quanto influisce, ma sicuramente influisce anche sull'andamento generale di quella che si chiama Europa e di quello che si chiama mondo. Vabbè, è stato giusto uccidere Bin Laden, Scilipoti? Ma cosa di chi li aveva? Vuole chiedere Bin Laden, Scilipoti? Ma io, guardi, gli posso rispondere con la mia cultura. Io sono per la vita, perciò quando gli altri esultavano perché avevano ucciso, dico, Bin Laden, io mi permettevo di fare una riflessione dicendo che non c'è niente da esultare quando si ammazza qualcuno o muore qualcuno, ma c'è soltanto da fare una grande riflessione. E che riflessione? E la riflessione dovrebbe essere fatta a monte. Ecco perché il testo di questa canzone. Cosa vuol dire una riflessione fatta a monte? Divento orecchiabile. Ma come è bello parli? Da ascoltare. Vuol dire una riflessione fatta a monte? Perché chi l'ha scritta questa canzone, sì, porta dietro. Ma chi l'ha scritta? Il signore di prima? Chi l'ha scritta? Il signor Amerio? Il signore che si chiama Danilo Amerio. No, pensavo che anche lei avesse dato il suo contributo, o no? Ma cosa vuoi? Contributo piccolissimo, ognuno deve fare il proprio lavoro. Io non posso dare. Ma Berlusconi l'ha sentita questa canzone? Abbiamo fatto delle riflessioni assieme, ma questi, il testo è integralmente del signor Amerio. Berlusconi ha dato Berlusconi l'ha sentita, no? No, Berlusconi non l'ha sentito, non capisco perché lo doveva sentire. I primi che la state sentendo siete voi, anche perché c'era, se io sono una persona che quando prende degli impegni, certo, cerca di mantenerli non al 100%, ma al 98%. Dico, avevamo detto che questa canzone, dico, in linea di massima, veniva fuori oggi, cioè nella giornata di oggi, sì, io non so se siete stati i primi o i secondi, però fra i primi e i secondi, dico, a darla come musica. I primi, mondiale. I primi, l'abbiamo data a voi. Ora dico, ritornando indietro, sì, la riflessione, allora, per chiudere Bin Laden, allora, sì, quando Scilipoti che commenta Bin Laden, no, però, chiunque non posso farcela. Parenzo dice che lei non può commentare Bin Laden. No, ma Scilipoti che commenta Bin Laden è incredibile. Alla Casa Bianca delle cose importanti. Pensa se si vede un'agenzia, Scilipoti commenta Bin Laden. Cosa fa? Traduce quello che dice Coso. dice che lei non può commentare Bin Laden. Scusa, cioè, ragioniamo, ma io non posso commentare. Un attimo solo, Scilipoti, facciamo intervenire Parenzo. No, io sono così, adesso, voglio dire, con tutti i problemi che ci sono nel mondo. Un attimo, non vi accavallate, non si capisce niente, Parenzo. Dico, con tutti i problemi nel mondo, ti immagini adesso il povero Obama con tutti i casini che anche si vede la dichiarazione di Scilipoti sulla morte di Bin Laden? Cioè, c'è delle regole. Parli della sua canzone, che è brutta, parli dell'amore, parli di Dio, parli di quello che vuole, ma non di Bin Laden. Ci risparmi Bin Laden, il parere di Scilipoti su Bin Laden. Laden non interessa a nessuno. Lo dico con ragionevole certezza. Ragionevole certezza. Il parere di Filippotti su Bin Laden non frega un cazzo a nessuno. Punto. Fine. Addio i responsabili. Chiuso. In questa odissea, perché insieme che la storia si crea. Oh, a me piace però, che ti devo dire, Davide, a me piace. Posso parlare? Prego. No, non su Bin Laden però. Anche l'ultimo dei più umili, non parlamentari, ma umili di questo mondo, esseri umani, devono anche dire ciò che pensano su alcune questioni importanti. Certo. Nessuno si può arrogare il diritto di dire tu non sei in condizione di esprimere giudizi o di dire o di non poter dire o di non dover dire il tuo pensiero. Ora quando Parenzio, ecco, perché Parenzio io ritengo, ma lo dico veramente con grande serenità, non è una, è una persona intelligente, è una persona che ha cuore, però prende quelle posizioni molte volte che gli servono solo per fare il personaggio, che tutto sommato alcune volte vanno bene, ma qualche volta secondo me dovrebbe fare qualche riflessione che viene fuori dal personaggio e che entri anche in una riflessione leggermente più profonda. Più profonda, una riflessione più profonda. Sì, Parenzo, una riflessione più profonda. Non sentiamo, sentiamo la predica della domenica, forza, dicendo lo fa. Però Scilipoti, a lei vorrei chiedere una cosa. No, abbiamo capito, lei dice che deve uscire fuori dal personaggio. Io però le vorrei chiedere una cosa. Alcune volte, non ho non sempre, alcune volte, sì. È un invito anche ad una riflessione maggiore, Parenzo. Guardati dentro e ogni tanto cerca di guardare dentro Parenzo in alcuni minuti. Solo la notte lui riesce a guardarsi bene, perché siccome non c'è la luce, allora riesce a guardarsi bene dentro. Vabbè, questa è una battutaccia. No, vabbè, dico una battuta, dico stiamo parlando fra amici. No, certo, assolutamente. Per carità. Allora, però lei non si vergogna, vero, di tutto quello che ha fatto? Non si vergogna? Scrive canzoni sull'amore, su Dio, alla politica, di che cosa? Di che cosa si dovrebbe vergognare, Scilipoti? Scusami, Parenzo. Ma si dovrebbe avere, dove fare una canzone dove metti in rima il passaggio dall'Italia dei valori a Berlusconi e dopo ci spiegherà cosa pensa di Bin Laden. Solo dopo. Però adesso lasciamo perdere questo. Voglio chiedere a Scilipoti una cosa. Questo domani ci sarà la nomina di questo. Sia Berlusconi che l'Italia dei valori dovrebbero parlare un linguaggio, a mio giudizio, nell'interesse non della bandiera. Ma parlano un linguaggio diverso, però. Parlano un linguaggio diverso. Parlano un linguaggio diverso, Scilipoti. Che accentuare questo tipo di riflessione, che è la riflessione dell'odio e non sicuramente della riappacificazione per un futuro migliore, non fa un buon servizio agli italiani. Agli italiani lei deve parlare per risolvere problemi, lei dovrebbe interrogare, intervenire su argomenti che io ho portato all'attenzione del però, mondo. Scusi, della politica. Scilipoti, le voglio chiedere una cosa di politica interessante. Scusi, le voglio chiedere una cosa di politica. Domani pare che ci sarà la nomina dei sottosegretari, è vero o no? Ci sia la nomina dei sottosegretari, io non sono interessato né prima né ora né dopo. Lei non è interessato, d'accordo, ma ci sarà la nomina del sottosegretario o no? Anche questa cosa, per esempio, Parenzio la dovrebbe portare all'attenzione non soltanto di coloro i quali ci ascoltano, ma anche della coscienza di Parenzio, perché personaggio come l'onorevole Scilipoti, che è stato criticato, che è normale, ma che gli è stato buttato fango a 360 però, gradi. Però scusi, mi risponde alla domanda, mi risponde alla domanda sui sottosegretari. Completo la riflessione. Gli è stato buttato fango senza nessuna relazione con la verità, ma soltanto delle falsità, e che avevano detto tutto e più di tutto, ma che non era vero. Oggi pone una, scusi se mi permetto, pone, non dico una lezione di politica, ma pone una riflessione politica che molti politici dovrebbero guardare con grande attenzione. Però scusi, io ho preso la mia posizione il 14 perché ci credevo. La mia posizione è quella di portare avanti quel progetto che avevo in testa nell'interesse degli italiani, e aggiunge che non è soltanto condividendo il progetto la maggioranza, ma è condividendolo e cercando di dare delle risposte. Va bene. E allora su questo dobbiamo dire però, che scusi, concludo la mia riflessione, che il PDL e la Lega in questo momento si stanno comportando bene, perché alle promesse che erano state fatte su un programma c'è stata una risposta vera e reale. cioè dire la risposta qual è? Quella della discussione e dell'inserimento in uno dei prossimi ordini del giorno alla Camera dei Deputati, la soluzione per venirne fuori in senso migliorativo, migliorativo. E trovando tutto quello che può essere migliorativo di quello che è stato fatto sul Parenzo, che stai dicendo? E questa è la soluzione, questa è una risposta nei confronti dei cittadini, questa è una risposta concreta, reale. Va bene, tutte le altre cose sono degli elementi, però, Scilipoti, scusi, o degli argomenti di discussione che non vanno a approdare a cose serie, ma vanno a approdare soltanto a delle fantasie. Però scusi, Scilipoti, io vorrei capire una cosa. Domani si fa questo piccolo rimpasto a nomina dei sottosegretari oppure no? Io mi auguro che si faccia. Ci può fare dei nomi. Per me non è prioritario, come non è prioritario per tutti coloro i quali stanno nel gruppo di iniziativa responsabile. Se si dovesse ritenere, ci può fare dei nomi o no? Scelta di completare, di chiudere alcune caselle all'interno del governo, che ben venga, ma non è prioritario, perché ora o domani o dopodomani non è importante. Come non è prioritario chi è che andrà a ricoprire dei ruoli, vabbè, è importante che abbia competenze e capacità per ci può fare dei nomi, perché fare delle leggi negli interessi delle nostre famiglie e delle traffico, devo interrompere, traffico. Banalità pazzesca. Un solo cuore, un'unica idea, in questo mondo di ostinata follia, per ritrovare il valore che ha la nostra vita. Intanto in esclusiva qui alla Zanzara l'inno dei responsabili del movimento di responsabilità nazionale di cui Domenico Scilipoti è segretario. Beh, caro Parenzo, c'è una frase che è azzeccatissima: in questo mondo di ostinata follia, direi quasi autobiografico per quanto riguarda il movimento. Comunque va bene così, addirittura. Ma scusa, tu come autobiografico, cosa credevi che in questo inno dovesse entrare la questione dell'Italia dei Valori? Un inno è un inno? Ma no, ma io ormai non mi aspetto più nulla, non mi aspetto più niente, cioè parla di Dio, parla di olismo e vogliamoci tutti bene, e commenta Bin Laden, è Scilipoti, cioè è l'ottimo Scilipoti, è una parentesi della storia parlamentare di questo paese, passerà, è la democrazia, e la democrazia comprende anche Scilipoti, e io dico evviva Scilipoti, perché dico evviva la democrazia, quindi teniamoci Scilipoti, che non ci faccia una lezioncina su Bin Laden però, perché il signor Obama ha altro da fare che non leggere sulle sue agenzie. Ma che c'entra? Che c'entra Obama, non è che Obama. Sì, perché Obama sarà lì e gli segnalano tutto quello che viene detto del mondo su di lui. Poverino, gli arriva la teca di Scilipoti due punti, Osama non doveva morire, e quello perde 30 secondi del suo tempo prezioso, perché deve stare, poi dice who is Scilipoti? Who is Mr. Scilipoti? Who is Mr. Scilipoti? It's a movement of responsibility. E Obama dice responsibility. Scilipoti è divertente, Parenzo, lo devo ammettere. Ma non posso parlare, io vedo tutta questa riflessione che ha fatto, mi dispiace perché è una riflessione, scusi la virgoletta, molto puerile, perché veda, io ho il coraggio di dire quello che penso, e quello che penso vale anche per Bin Laden, e quando dico che i miei valori sono cristiani, perché la vita per noi è sacra, e Parenzo non la può capire. Parenzo non può capire questo linguaggio, e mi dispiace, ecco perché è puerile. Quando io dico e faccio una riflessione, si toglie il crocifisso dai muri, ed ho il coraggio di dire ciò, di affermare determinati pensieri, di affermare determinate frasi molto forti, ho il coraggio di sostenere la mia idea, di sostenere il mio modo di pensare, di sostenere la mia cristianità. Allora la mia cristianità non si vede soltanto nelle parole, nella musica, ma si vede anche negli atteggiamenti e nel comportamento. Allora quando Parenzo che agisce e si comporta in modo puerile e non capisce che cosa significa il linguaggio parlato su Bin Laden, che si riporta anche a una mentalità che è anche all'interno di questa canzone, chi è cristiano non può amare la morte, Parenzo. Non capisci niente, Parenzo, sei fuori dalla logica di Cristo. Hai capito? Un cristiano non ama la morte, non un cristiano puoi amare ama la morte. La vita, un cristiano cerca di redimere, un cristiano cerca di riportare sulla retta via. Parenzo, sai che cos'è la Bibbia, sai sai che cos'è il Vangelo, Valenzio, svegliati, cerca di essere qualcosa veramente di costruttivo per i tuoi figli, non parlare di cristianità quando non conosci il significato della parola, Valenzio, cristiano significa rispettare gli altri, Valenzio, cristiano significa non uccidere, Valenzio, cristiano significa non togliere la vita a nessuno, ma capisci di ciò cosa sto parlando, Valenzio, ma tu ti rendi conto che sei un giornalista, che fai un danno che diventa irrimediabile per coloro i quali credono in dei principi e dei valori. Valenzio, svegliati, togliti da là, perché il danno che tu fai è veramente irrimediabile. Sei un grande mediocre, ma perché sei mediocre? Perché capisci quello che io ti sto dicendo, ma soltanto per spirito di bottega e soltanto per stupidità devi sostenere l'incontrario di quello che sto dicendo io. Questo è il fatto grave, non che tu sei vuoto, tu non sei vuoto, tu sei peggiore perché tu capisci di che cosa io sto parlando, tu ti rendi conto del vocabolo che io sto utilizzando, ma sei così in malafede solo per ottenere un risultato che mandi un messaggio che è deleterio e non capisci il danno che fai. Allora ecco che cosa ti dovrebbe fare vergognare la notte quando arrivi a casa e ti guardi allo specchio, ma meno male che ti guardi allo specchio senza luce. Capisci, Parenzio? Io ti voglio bene, Parenzio, perché tu sei un essere umano, tu sei degno di rispetto, ma il danno che fai, Parenzio, è irrimediabile. Tu dovresti essere allontanato per quelle cose che dici, perché non capisci quando devi parlare con grande serietà e sobrietà e quando devi parlare per fare l'artista. Gli artisti hanno anche il compito di saper parlare nel momento giusto, di saper far divertire coloro i quali l'ascoltano, ma sono anche delle persone intelligenti, sanno utilizzare le parole nel momento giusto per mandare un messaggio giusto. Io ho il coraggio di parlare di cristianità, capisci, Parenzio? E quando dico che né Bin Laden né altri possono essere uccisi è perché nella mia cultura, Parenzio! Parenzo! Parenzio, svegliati! Sveglia! Sei morto dentro il cuore, sei morto dentro lo spirito, sei vivo solo perché sei materia, ma materia grezza, che non può mandare un messaggio, io sto mandando un messaggio, Danilo ha scritto una canzone per dire, noi cristiani non siamo contro nessuno, ma vogliamo difendere ciò che è nostro. E nessuno può venire a casa mia per dirmi ciò che devo fare. Ma mi devi rispettare come io rispetto te. Parenzo. Significa amore, Parenzio. Parenzo. Ma tu non capisci questo vocabolo. Oppure ancora la cosa più grave, sai qual è? Qual è? Che tu la capisci, ma fai finta di non capirlo. Perché sei un mediocre che fa il giornalista perché sei sostenuto da una parte politica che a ogni costo devi sostenere e mantenere perché rischi allora di non esercitare più il ruolo di giornalista. Parenzio, ti amo io, ti voglio bene. Io sei no, essere umano, sei un figlio di Dio. Spero ma che Gesù Cristo ti illumini perché sei veramente la distruzione non dei miei figli, ma dei tuoi figli. Parenzio, la distruzione dei miei figli sono, hai capito? Un grande coro e dentro ci sono anch'io, oh, un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tua, ancora mia. Però devo esci un po' di l'onorevole Castiello, le piace, eh? Baciamano alla camera, l'abbiamo visto, eh. Io parlo con il cuore, perciò quando parlo con il cuore dico ciò che penso, ma dopo un 30 secondi vorrei che Parenzio ci fosse qualcuno che lo tiri, non so quanti capelli ha per i capelli, lo è più dei suoi, caro Danny De Vito. Però Castello è una gran bella donna, La Castello è una bella donna, un baciamano, è un fatto di galanteria nei confronti, io non lo faccio solo con la Castello, lo faccio nei confronti di tutte le anche con gli uomini lo fa, che normalmente quando incontro è un forma di galanteria, di cortesia, di rispetto per il gentil sesso. Certo, abbiamo Luciani, lei è sempre veramente una persona meravigliosa, fa il suo lavoro in modo ineccepibile. Grazie. Ma questo Parenzio, secondo me, è, tutto sommato non è cattivo. No, ma dovrebbe essere un poco più puro, più pulito. Più pulito, più puro, sì. Ha qualche rifuso. Scilipoti, guardi che alla Casa Bianca attendono una sua dichiarazione su Bin Laden. Questo Parenzio, speriamo che nel futuro possa rimettersi sulla giustizia. Scusi, onorevole Cili, dottor Cruciani, voleva fare qualche altra domanda? No, io Cili, una considerazione rapidissima. Dalle cancellerie di tutto il mondo attendono il suo parere sulla vicenda di Osama Bin Laden, Cili. Lo attendo dalle cancellerie di tutto il mondo. Prego, Cili, la sua analisi su Bin Laden, prego, Cili, con grande amore. E che il Signore ti possa proteggere e ti possa sempre mantenere la mano sulla testa per darti serenità, equilibrio. E ti vorrei aggiungere qualche altra cosa, che in questo momento, siccome siamo in trasmissione radiofonica, no, lo può anche dire, te la dico, te la dirò personalmente quando ci incontreremo. Sperate, carità, bene, allora vai. Io voglio dire una cosa in conclusione, voglio avere una parola definitiva da Scilipoti sul fatto che lui domani non entrerà nel governo. Adesso andiamo a fare, ci manca solo questo, guarda, ci manca solo questo. Scilipoti, prego. Parenzi, dimmi qualcosa di più piccante, perché questo non è piccante. No, se arrivi al governo, dai, è tutto finito, posso dirlo? Dai, parecchio. Ma no, io ti voglio veramente anche bene, sei anche simpatico, perché, però se vai al governo è tutto finito veramente, sai? Cioè, voglio dire, cioè, dai una speranza a chiunque, chiunque può diventare ministro, chiunque. Scusami, Parenzio. La politica è una cosa seria, amore mio, prima che tu arrivassi. Quando c'è la fine di qualcosa, incomincia una nuova vita. No, ma qui io sono morto il giorno 14, ma sono risuscitato il giorno 14. Cioè lei è morto, ma poi... nel terreno, per marcire, una grande piazza. Parenzio, dovresti leggere di più e dovresti informarti, e prima di dire delle cose, dovresti pensarci. La fine, quando tu dici... va Scilipoti al governo è la fine. La fine significa rinascere, no, ricominciare. Significa, cioè, lei 14 è morto nuova. E poi dopo mezzanotte è un minuto, caro Parenzio, significa l'alba. Per te no, perché l'alba per te sono le 6 di mattina, le 5 e mezzo di mattina. L'alba significa mezzanotte e un minuto, già incomincia una vita diversa. Ah, è finita. Si dice dalle mie parti, non so se tu il dialetto sia, no, ma lo guarda che c'è un dramma in corso. Più scuro di mezzanotte non c'è. Allora, che cosa significa? Quando tu pensi che sia il male peggiore, dopo il male peggiore si incomincia qualcosa di nuovo, incomincia una nuova storia, incomincia una nuova vita. L'importante è che ci siano persone pronte e preparate per saper guidare quella nuova storia, quella nuova vita. E io spererei che tu, Parenzio, nel tuo lavoro di artista, nel tuo lavoro di giornalista, che è un lavoro nobile, tenteresti quantomeno di creare le condizioni di una società leggermente diversa di quella che c'è. Va bene, va bene. Allora, con rispetto, dico, Cruciani. Però devo chiudere qui. Però con rispetto, dico, tutte le immagini, un vertice internazionale. Ma perché dove devi c'è Obama? E c'è anche Cili. Ma che c'entra Obama? Cilipoti, la devo salutare, la ringrazio molto. Grazie. Un abbraccio, l'abbraccio forte. Responsabilità nazionale. Stefano dalla provincia di Genova, dimmi che non puoi dire che non ti piace. Sì, ma mi mette anche di buon umore, perché cosa vuoi? Mi diverte ma mi rattrista allo stesso tempo. Comunque Scilipoti ha grandi capacità da predicatore, non c'è dubbio su questo, eh. Hai sentito? Sì, una tirata di 4 minuti interi, una cosa formidabile. Sì, come americani, quei predicatori americani, no, della cantella della sì, tutta contro di te, però va benissimo. Sì, è un scientologi della politica. Stefano, provincia di Genova, buonasera. Ah, non voglio offendere scientologi, chiedo scusa, eh. Dimmi che è successo. No, non volevo offendere scientologi, chiedo scusa. No, per carità. Ho detto scientologi della politica, chiedo scusa a scientologi. Stefano, provincia di Genova. Eccomi. Intanto Bossi ha detto Berlusconi resterà a lungo sulla vicenda Tremonti, che chiaramente tiene banco in queste ore, la vicenda Tremonti. Prego. Ecco, volevo dire che quando io sento Scilipoti, come tanti altri, ho un rimescolamento interno, no? E siccome voi conduttori avete una intelligenza, una cultura decisamente superiore a quella del vostro interlocutore, ma non è detto, anzi questo, no, io ho la sensazione che una volta terminato l'intervento, sì, poi l'onorevole possa anche pensare di aver fatto una bella figura, cioè di avere... Francamente quello che pensa Ciriboti, se ha fatto una bella figura o una brutta figura, non è che sia di particolare interesse per noi. A me invece farebbe piacere che voi, che siete persone intelligenti e sarcastiche, sì, foste leggermente più, diciamo così, incisivi. Sottolineare alcune incongruenze, ecco. No, scusi Stefano, a parte che le incongruenze di Ciriboti ne abbiamo parlato a lungo dal 14 dicembre, prima del 14 dicembre, ma francamente io credo che in alcuni casi basta lasciar parlare, cioè, non sì, voglio sì, dire no, niente. No, vabbè, è chiaro, e non aggiungo altro, non delle perle di saggezza, e non aggiungo altro per l'affetto che comunque ho nei confronti di questa persona, di questo Danny De Vito della politica. Lo sai che mi sono affezionato, caro Parenzo, un po' mi sono affezionato. Ma, sì, ma come ci si può affezionare, come dire, a una... No, tu no, sì, tu no. No, ma in fondo anch'io, ma come ci si può affezionare, non so neanche, non a una pianta, ma come dire, ma non so neanche dire pianta, che cosa. Ma no, una pianta proprio no, insomma. No, è un arredo di casa, cioè la pianta, no? Quando la pianta sta male, gli dai dell'acqua, la curi. Beh, ma non è proprio la stessa cosa, non è che puoi paragonare una persona a una pianta, abbi pazienza. No, ma io voglio bene le piante, no, ho detto la pianta ho sbagliato. Ma tu non gli vuoi bene, non gli vuoi bene, di la verità, non gli vuoi bene. Ma no, ma mi dispiace che abbia la scorta e che abbia patito, perché lì veramente è patito. Però è una macchietta, poi si vede troppo su sé. Quando vuole commentare Obama, ma non ha il senso della mia, mi fa far male veramente. Cioè io soffro quando sento qui discorsi, e Dio, e l'anima, e convertiti, ma cosa, ma Ciri, ma cosa, sei un signorino di provincia, hai pescato il jolly, sei finito in Parlamento, sei passato dall'altra parte, stai buono, abbi la dignità di star buono 10 minuti, che la gente ti ignori, invece no, si inventa il movimento, fa l'inno, predica, vuole parlare politica, con Obama. Fa politica, non ma vuole parlare con Obama, non è vero. Beh, devo dire che a un certo punto ha detto, io ho fatto una scelta di grande responsabilità il 14 dicembre anche di fronte al mondo, questo, di fronte al mondo, dai, questo mi sembra francamente. 10 minuti. Gianni, provincia di Viterbo, buonasera. Buonasera, cose iniziali. Una, sì, sono d'accordo con Ciriboti, mi dispiace per Parenzo, ma sono d'accordo in con che Ciriboti. Senso d'accordo con Ciriboti? In generale per quello che, in generale per quello che dice, in quello che dice. E premetto che chiamiamo? Io, tutto, pronto? Sì, prego, prego, lei continui, Gianni. Allora, poi un'altra cosa a Parenzo, posso fare una domanda a Parenzo, sì, prima, prego, di fare Sì, dove si trova poi? Per Parenzo, io sì, ho 60 anni, ho fatto il mio 68 da democristiano, ho fatto il 68 in mezzo ai comunisti, vabbè. Sono amico di molti comunisti, appunto. Sì. Ma per Parenzo i comunisti sono perché ci credono all'ideologia comunista o perché sono invidiosi dei capitalisti? Beh, una domanda, Gianni. Una domanda un po' decontestualizzata, diciamo. Lei sì. No, perché dopo viene quella dopo che ha riferimento al manifesto. Quale manifesto? Quello da venerdì, dagli ultimi che ho chiamato, che mi avete richiamato due volte. Ma su che cosa? Sull'Assini? No. Che no, manifesto? Sull'Assini, sì. Il manifesto delle Biere. Allora mi dica il manifesto delle Biere, quello che ne pensa. No, prima mi deve rispondere. Ma che domanda era? I capitalisti, non che i comunisti, i capitalisti, che domanda no, era? No, è perché c'è un senso. Allora, quando lo vede solo lei il senso, 68, quando io facevo Cruciani, siamo pure mezzi parenti, perché c'è il mio bisnonno Salvatore Cruciani, per cui può darsi pure siamo parenti. Può darsi. Beh, tutte le famiglie. Ma in America stanno, a Denver, una parte di quelli lì. No, io no. Dunque non siamo parenti. Allora, niente allora, da fare quando Gianni. Sei salvo nel 68, nel 68 facevo il quarto superiore. Ho capito Gianni, ma però no, lei capisce che non è di grande interesse il fatto che lei nel 68 faceva la quarta superiore, adesso con tutto il rispetto. Allora, no, è interessantissimo invece, perché molti interessantissimo per lei, non ma non per noi, abbia pazienza. Ma pure per altri. Allora, pure per altri, vabbè. Pensi per la sua famiglia, per sapienza, i suoi amici, d'accordo? Ma neanche per la sua. Andavamo alla Sapienza, c'è stava fisica e legge. E allora? Fisica, una volta era nera, diventava rossa, e legge era rossa, diventava nera, legge era nera. Ma cosa rossa ci interessa a noi di quello ma che succedeva nel 68 all'università italiana, aspetta, Gianni? Quelli che sono quelli di legge sono diventati rossi. Sì. Qualcuno è diventato brigadista e c'era le palle e ha sparato. E allora? Sono perfettamente contrario a questo. altri che non c'erano fegato, tipo quelli che stanno lì. Cioè chi? Si sono messi la tonaca. Chi? Si sono messi la toga. Lei sta dicendo che anche tra i magistrati di oggi ci sono i brigatisti, cioè, no, ci sono ex brigatisti che non hanno avuto il coraggio di prendere la pistola per seguire l'ideologia, ma hanno applicato la stessa tecnica di quegli altri, però senza le palle. Vabbè, dunque lei ci sta dicendo che quel manifesto ha un suo senso. Perfettamente. Scusi Gianni, a parte che quel manifesto non si riferiva alla storia passata, non si riferiva alla storia degli anni 70. Poveretto. Boccassini e quest'altri. L'età mia. Ma che c'entra Boccassini? E allora? Quant'anni c'hanno quest'altri? Vedi le scarpe che indossavano quando facevano l'università. Senta, può dare al centralino un'indicazione, Gianni? Sì, precisa però. Un'indicazione precisa. Provincia di Viterbo dove esattamente? Dove si trova? No, basta, basta quello. Dove si trova? Provincia di Viterbo, una cittadina almeno, sennò i signori dell'ambulanza non riescono ad arrivare, capito? Ma non ce ne frega niente, Cruciani, guarda, il discorso è che se voi andate dietro e fate, non tanto tu perché a te stimo tantissimo, presto poco. Ho capito Gianni, però ma meno male. Lei sta parlando di cose degli anni 70. Ma Lorenzo, ma tu la storia, ma quanti anni c'hai? 12, ma la storia la conosci? Ma guarda, ma la fatta un po' le storie a casa, a scuola. Vabbè. Ma che cosa vuol dire storia? Fermi un attimo, Gianni, si fermi un attimo. Cinzia Cracchi, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Che bella voce, signora Cracchi, che bella voce. La capolista della lista civica Nettuno. Nettuno. Che significa? Perché uno chiama la lista Nettuno? Parenzo, tu, candidata a Bologna, signora Cracchi, per quelli che non lo sapessero, è quella che ha provocato un casino pazzesco. Cioè, se si va a votare a Bologna, è per opera, diciamo, indirettamente dalla signora Cracchi e dello scandalo del bono. Esatto, diciamo indirettamente, insomma. No, indirettamente, comunque, insomma, da quel momento in poi c'è stato una sorta di tourbillon a Bologna, da cui forse si uscirà con le prossime elezioni. Che vuol dire la lista Nettuno? Che volevi chiedere subito, Parenzo? No, subito volevo chiedere alla signora, che è stata protagonista di questo primo sex gate rosso bolognese, che bisogno aveva di candidarsi? Cioè, ecco, lei, ce lo domandiamo tutti noi. Sì, ma guardi, innanzitutto io questo percorso l'avevo già fatto nel 2004 candidandomi con la Margherita. Per cui per me non è una cosa così nuova. Ma all'epoca già era... com'era la situazione col signor Del Bono? Beh, era il 2004, quindi... Del Bono c'era, ecco. C'era con lei? Certo. Eravate insieme, insomma. Eravate insieme. Certo. E dunque, lei già era stata candidata nel 2004. E adesso Nettuno. Che vuol dire Nettuno? Perché Nettuno? Beh, Nettuno perché comunque... è il simbolo di Bologna anche, no? Quindi Carcano ha pensato di chiamarlo Nettuno, insomma. Io non mi sono occupata di questo. Non c'è un riferimento a qualcosa, no? Sì. E qual è? Perché ride? Penso al Nettuno di Bologna. Ah, solo questo, diciamo. Pensavo ci fosse qualche altro riferimento. No, non credo. Senta, ma è vero che il signor Del Bono è un mattacchione, insomma, no? Una sorta di Berlusconi di Bologna, di Berlusconi rosso, si può dire o no? Ma così dicono. Se non lo sa lei, scusa Parenzo. Ma pure io l'ho scoperto dopo, sa? Ma... Cosa ha scoperto dopo? Questo che voi state dicendo, che era un mattacchione. Che era un mattacchione, Gli piaceva alle donne. Così pare. Come si dice a Bologna, gli piaceva la gnocca, no? Parenzo, adesso non esagerare, che siamo alle 20:48 qui. A Bologna si dice, credo, no? Traffico, sì, torniamo sì, subito. Certo che si dice. Come si dice? Si dice proprio così, no? Come ha detto il suo collega. Dunque, il signor Del Bono piaceva la... Come si dice, signora Cracchi? Come ha detto il suo collega, insomma, è quella roba lì. Traffico, torniamo subito. Siamo qui alle 20:50 con Cinzia Cracchi, che è la capolista della lista civica Nettuno a Bologna, nonché protagonista del famoso Sexy Gate di Bologna, che ha portato alla situazione... Ma perché Sexy Gate? Vabbè, perché quello che è... Come è stato chiamato, signora Cracchi? Non mi ricordo. Ma lo chiamiamo... Ma guardi... Del Bono Gate, come? Chiamiamolo Del Bono Gate. Del Bono Gate. Di più, perché di sexy c'era veramente poco. C'era poco. In quel caso, nel caso dello scandalo, dice lei, sì, le carte di credito utilizzate, eccetera, eccetera, no? Le rimborsi spese della regione. In quel caso, sì, certamente, i motivi delle dimissioni non sono stati motivi sessuali, giusto, signora Cracchi? Certo, ma sono, non, sta, non sono stati stati nemmeno motivi della Cracchi, visto che la Cracchi non era in missione ma in ferie, e in missione c'era il Del Bono, quindi... No, no, certo, perché poi adesso questo è un altro discorso. Scusi, ma quando ma lei... Ma perché si è vendicata? Perché si è vendicata, signora Cracchi? Ma guardi che... No, io non mi sono vendicata, vabbè, perché insomma, sì, si vendica chi perde, visto che io in questa vicenda non ho perso. Non mi sono vendicata affatto. Senta, ma volevo capire una cosa. Quando lei e il signor Del Bono eravate insieme, lui era fedele oppure no? Io penso, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui. Di solito i cornuti sono gli ultimi a sapere di esserlo, quindi... Scusi, quello è vero, questo è vero. Lei sì, comunque, per quello che la riguarda, sì. Però qui leggo da qualche parte che lei ha detto che ha più amanti delle colonne dei portici di Bologna. Questa è un'accusa grave, sono tante i portici. Quanti sono i portici, le colonne dei portici di Bologna? Sono tanti, ma io ho detto forse. Come forse? Ah, credo, sì, però, credo che quando credo, stava con me abbia avuto una buttata. Tante donne quanti portici della mia città. È stata un'intervista ironica, però insomma. Amava un sacco di donne o solo lei? Bisognerebbe chiederlo a lui. Se volete sapere questo di Del Bono, dovete chiamare Del Bono. No, vabbè, ma però vede, sono sempre le donne a far crollare il potere in questo caso, no? Cioè, è la storia anche italiana, ma anche la Bibbia, per citare Ciripozzo, la storia è piena di donne che a un certo punto mettono in scacco il potere. La signora Ariosto, ad esempio, no? Per ricordare la vicenda di Berlusconi, o la moglie di Chiesa, la moglie di Chiesa a Milano. Scusi, però, signora Cracchi, lei ha detto anche delle cose pesanti. Ci sono signori di metà Bologna che sono state con lui. Cioè, lei ha dipinto il signor Del Bono come una sorta di amante tombeur pazzesco, di tombeur de femme, di Bologna, una sorta di Berlusconi rosso. Diciamo la verità, è così o no? Ma guardi, Bologna mormora questo. E cosa mormora? Appunto, questa cosa che io ho detto. E che ha detto? Se non ce lo dice, come facciamo a... Come? Me l'ha detto lei ora? Ho capito, l'ho detto io, lo dica lei. Cioè, che lei cosa... vuole fare dire delle cose che io non voglio dire, che comunque ho già detto. E che mormora e che Bologna? Comunque banalità, insomma. Beh, banalità, se l'ha detta, la dice di aver detto delle banalità, allora. No, nel senso che comunque voglio dire, se la ripetiamo all'infinito... No, all'infinito, una volta la ripetiamo, così tanto così la gente ha le idee chiare, cioè secondo lei... No, ma la gente, guardi, le idee secondo me le ha chiarissime. Chiarissime, cioè, sì, certo. Io penso di sì, anche perché altrimenti Del Bono sarebbe ancora sindaco, no? Quindi evidentemente se non le ho più, qualche motivo ci sarà. Però la gente secondo me si chiede, anche chi ci ascolta da tutte le altre parti d'Italia, perché un bolognese dovrebbe votare l'ex amante del sindaco che poi non è più sindaco? Cioè è una cosa un po' tutta italiana, uno diventa un po' famoso e poi dice vabbè, faccio politica. Io come le ripeto, l'avevo già fatto. Però lei adesso si candida, ho capito. Però scusi signora Cacchi, lei adesso si candida sull'onda di quella vicenda lì, altrimenti... Forse l'avrei fatto comunque come l'avevo fatto nel 2004, perché io nel 2004 mi sono candidata sull'onda di quale vicenda? Nessuna. No, nel 2004 per cui non vedo il motivo. Questa, guardi, per me è un'onda molto negativa. Insomma, è proprio una bassa marea, anzi lei l'onda dice, proprio non c'è. Io ne avrei fatto volentieri a meno di questa cosa. E quindi le dico, peraltro non ne parlo neanche volentieri, insomma. Però ne ha parlato, ha detto di tutti i colori sul signor Del Bono ultimamente. Guardi, io credo di essere stata molto provocata, visto che lui ha detto che io sono una mantenuta, io mi sono difesa. Come sempre in questa situazione, semplicemente... Perché ha detto che è mantenuta? Perché lui le ha dato i soldi? Guardi, io non lo so, queste cose bisognerebbe chiederle a lui. Io sono responsabile di quello che dico io, non di quello che dicono altri. Abbiamo la sigla che ci accompagna e lo volevo so. Volevo sapere perché è finito questo bell'amore, perché alla fine è stato un bell'amore, credo, no signora? Ma non lo so, guardi, dai suoi toni, visto che lei mi definisce l'amante, non so come devo chiamarla, l'amica. Anche perché io, cioè, voglio dire, stavo con Del Bono, forse anche lei ha una moglie, una compagna, una fidanzata. Ha una moglie, sì. Ma certo, una compagna, moglie, oppure una fidanzata, la chiamavano amante? No, ma le chiedo scusa se ho sbagliato il termine. La compagna di Del Bosco. La compagna, ecco. La compagna, giusto? No, perché sa, le parole hanno diversi significati. Hanno un peso, hanno un peso. Ho sbagliato, le chiedo scusa, ho sbagliato, le chiedo scusa. No, no, ma riprendiamo uno dei prossimi giorni. A domani, 18.30. Grazie, signora Gracchi, arrivederci. Radio 24. La passione si sente.